qui abbiamo alcuni primati nel forum. Il primo primato è che per la prima volta viene creato un momento in cui le università possono presentare i loro progetti di ricerca e presentarli alle aziende del settore. In questo modo le aziende possono venire a sapere se c'è qualche progetto che gli interessa, finanziarlo e svilupparlo. Quindi è un vero incontro, una vera piazza di incontro tra università e industria. Questo è il primo primato. Il secondo primato è che per la prima volta che capita in una manifestazione fieristica in cui il progetto dei convegni, cioè l'insieme di convegni, non viene affidato semplicemente al meccanismo del noleggio delle sale, ma è stato progettato fin dall'inizio. Qui ci sono 40 convegni che toccano tutti gli argomenti di vero interesse per i progettisti. E una volta progettati i convegni, il piano dei convegni, abbiamo parlato con tutte le associazioni culturali e industriali del settore e praticamente tutte hanno risposto positivamente e sono state coinvolte nell'organizzazione di questi convegni. Quindi per la prima volta il programma dei convegni viene pensato apposta per creare un supporto informativo e divulgativo per il visitatore e non nella meccanica casuale che capita nelle altre fiere. Ok, mi ricorda soltanto l'esempio dell'Università di Sassari che mi spiegava prima, lo ricordiamo? Sì, noi abbiamo fatto un primo tentativo l'anno scorso con il forum nella prima edizione e dove già è capitato che l'Università di Sassari con il professor Fra Giacomo ha trovato nell'ambito di questi incontri un'industria interessata al suo progetto di ricerca e gliel'ha finanziato. L'anno scorso abbiamo fatto questo programma tutti in un mezza giornata. Quest'anno, visto l'interesse, l'abbiamo sviluppato per tutti i giorni della manifestazione e l'abbiamo allargato a più università. Quest'anno sono 26 le università che parlano. E aggiungo un particolare, in questi 40 convegni ci sono 160 professori diversi, italiani, coinvolti nello spiegare le tecniche del costruire.